Va ora in onda Rock Revolution. About destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright, alright. You say you got a real solution. Plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all doing what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be? In diretta dagli studi radiofonici di CRM Happy Radio, va ora in onda Rock Revolution. Presenta Filippo Brancato. Buonasera, bentrovati su CRM Happy Radio, la radio che si sente, che si vede. Anche questa sera siamo pronti ad iniziare questo nuovo appuntamento con Rock Revolution, il programma rock dedicato agli artisti emergenti, alla musica nuova, ma non soltanto emergenti, anche artisti affermati, un vine da molto tempo. E infatti questa sera avremo il piacere di parlare con Andy ex Blue Vertigo, una band insomma famosissima a livello nazionale e internazionale, dove insomma cantava anche Morgan, che ormai insomma si dà molto più alla televisione che alla musica, almeno per quanto mi torna in mente dalle notizie insomma che ho ultimamente. Quindi parleremo con Andy di questo suo nuovo progetto musicale che si chiama Fluon. È un trio praticamente fatto da Andy voce, sax e sintetizzatore, poi Faber al sintetizzatore programmazione e Fabio Mittino alla chitarra elettrica. Quindi un progetto nuovo molto molto interessante che vi consigliamo assolutamente di non perdere. Parleremo e vi daremo poi tutte le coordinate per conoscere meglio questo nuovo progetto di Andy. Ancora da Napoli parleremo con i Mantra, un'altra band molto interessante che scopriremo questa sera, ascolteremo anche delle loro canzoni. E poi avremo chiaramente gli ospiti in studio anche questa settimana da Palermo, in Malatempora, anche questa settimana, che insomma noi chiaramente ogni settimana abbiamo delle band nuove, vi facciamo ascoltare sempre nuova e ottima musica. E quindi questa settimana in Malatempora per conoscere il loro progetto musicale. Poi vi daremo anche in questo caso tutte le varie coordinate. Tra l'altro anche loro si esibiranno in una versione dal vivo acustica, sempre molto molto interessante e coinvolgente, perché insomma le cose fatte in diretta e dal vivo sono particolarmente interessanti. Do il benvenuto a Simone, buonasera Simone. Buonasera Filippo, io vi do subito tutte le coordinate per contattarci. Partiamo dal nostro sito crmpiradio.it, all'interno del quale potete scriverci un messaggio in diretta. Ancora i vecchi sms mandateli al 335 5637 251, oppure se volete farci una telefonata potete farlo allo 0921 923292. Infine Facebook, cercate CRM Happy Radio o Rock Revolution. Insomma avete tutte le coordinate per passare assieme a noi queste tre ore di sano rock and roll, di musica emergente, la musica nuova su CRM Happy Radio. E quindi iniziamo subito con un primo grande successo. Parliamo di una band internazionale, ultimamente insomma l'abbiamo vista sulle terrazze di Venice Beach in California. Tornano all'attacco nel 2012 i Red Hot Chili Peppers. Questo è Look Around, apre questa nuova puntata di Rock Revolution. Buon ascolto. My nature, custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion, hit the road cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision, long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there, hustle me bitch and you best beware. It's emotional and I told you so, but you had to know, so I told you. Soft walk to horizon, one big crash that no one dies in. This is for the folks in Fayetteville. It'll come just a lot of words on an old brick wall. Rob a lot of banks, got a pedigree scrawl. Put my peg into your square. Run around like we just don't care. Red Hot Chili Peppers con Look Around. Anche questa settimana non mancherà l'appuntamento dedicato ai quattro successi rock in sequenza senza interruzioni, ovvero il Rock for You. Avremo anche l'opportunità di ascoltare due splendide canzoni. Parliamo una degli Eagles con la fantastica Hotel California in una versione dal vivo per l'appunto del 2003, e ancora Here I Am, o Rem, insomma come vi piace dirlo, ditelo pure, con un'altra canzone molto famosa che è Is the End of the World as We Know It, che tradotto in italiano da Ligabue diventa A che ora la fine del mondo. Arriva John Bon Jovi, questa è One Wild Night. No dice, gonna take him for a couple weeks, babe. Made it beautiful. alle 21 su CRM Happy Radio Rock Revolution, il programma rock di CRM. Grandi successi del passato e nuove proposte musicali presentati da Filippo Brancato. Placebo con The Bitter End su CRM Radio, questo è Rock Revolution, siamo pronti a metterci in collegamento telefonico anche questa settimana con il nostro caro Francesco Quartararo. Francesco, buonasera. Buonasera a te, mi sentite? Benissimo, con un po' di eco, c'è un eco che sembra di essere in chiesa. Riproviamo a chiamarti, guarda, con un altro metodo, perché in questo momento mi sento un po' un papa, perché c'è un eco incredibile. Anzi, pregherei la regia di chiudere proprio la comunicazione, perfetto. Francesco, ti ricolleghiamo telefonicamente. Nel frattempo andiamo ad ascoltare una bella canzone. Parliamo di una canzone della grandissima Pantera Nera. Parliamo di Skunk and Nancy e questa è You Save Me. Tra l'altro gli Skunk and Nancy, da quando sono tornati assieme, stanno facendo tantissime date in giro per il mondo e saranno prossimamente in primavera a Milano al Fila Forum per un grandissimo concerto. Crown. I've been looking through my window. You saved me from myself. You came and saved me. You saved me from myself. Whenever proviamo a rimetterci in collegamento telefonico con Francesco Quartararo. Francesco! Io mi sento, perfetto. Oh, bene, bene, finalmente. Ti sento un po' basso, adesso ottimizziamo anch'io il tutto. Così riusciremo a parlare, spero. Oh, perfetto, perfetto. Troppo alto stasera sta succedendo di tutto. Cos'è? Venerdì 17. Ma dico io, è il 24, mica il 17. Comunque, senti, in qualche modo ne usciremo, mi auguro questa sera. Allora, intanto bentornato, so che ci sono stati dei movimenti quest'ultima settimana per quanto ti riguarda, no? Sì, vabbè, come qualcuno avrà già notato, ragazzi, scrivo anche per un'altra redazione, mi sono praticamente spostato a fare qualcosa di un po' più complicato, un po' più complesso, c'è bisogno di richieste, di fatti di cronaca, poi però ci sono le comunali a Palermo, quindi sono passato a Palermo Report con Pepito, dove ho trovato veramente un sacco di cose, ma la passione per la musica e tutto ciò che riguarda la musica rimane, e quindi su Rock Revolution sempre solo musica. Bene, alla grande, Francesco. Allora, spero che non frusti nessuno in redazione, perché ti ho sentito un po' incavolato. No, però, no, dai, può capitare. No, no, assolutamente no, stiamo ottimizzando tutto. Tra l'altro c'è stato un problemino, sai, il bello della diretta è proprio quello di vivere momento per momento tutte le tragedie che capitano. Io mi ero appena finito di cospargere di olio, visto che devo apparire in video, ora infatti sarà un problema, però dai. Peccato, peccato, ci riproveremo la prossima settimana, tieni a portata di mano l'olio così appena hai bisogno. Vabbè. Allora, okay. Senti, ci sono un bel po' di appuntamenti interessanti questa settimana? Sì, diciamo che dopo la piccola pausa carnevalesca siamo in piena quaresima, quindi torna la musica rock a devastare Palermo, bene, finalmente. Bene. Cominciamo, questa sera c'è una bellissima serata Winter Case Festival al Goa, è un qualcosa abbastanza complesso perché quest'anno il Winter Case si lega al Congo Rock, che è una manifestazione fortunatissima pugliese, quindi c'è una sorta di super mega evento al Goa con ingressi magari anche a 15-20 euro, però devo dire la verità, anche giustificati dalla buona organizzazione, dalla complessità di musica, drum and bass e dubstep. Bene, quindi si potrà anche ballare praticamente. Esatto. Poi per gli amanti del rock, sempre appuntamento al Barcollo, questa sera con il Barcollo on the Rock, e poi per domani siamo in giuria tecnica alla Versus School Contest, che vede insomma la sua finale domani. Che presenterai, se non ricordo male, no? No, domani in veste di giurato. Ah, bene. Resto d'assassino col mio passato. Polifunzionale. Sì, le band che si contenderanno per la finale sono i Protesa, Urla Autori, per The Crime Season A19 Black Season. So che stasera avete anche i Malatempora. Esattamente. Suoneranno anche dal vivo per noi. Poi fra un po' ci sarà anche l'intervista con Andy del Blu Vertigo. C'è qualcosa che vorresti chiedergli? Ai Malatempora? A Andy del Blu Vertigo. No, vabbè, forse è ancora presto per fare un po' l'operazione riavvicinamento con Morgan per il Blu Vertigo. Infatti, tra l'altro c'è stata già da poco tempo questa riunione. Però a quanto pare non è durata a lungo, infatti poi Andy ha scelto un percorso musicale alternativo, però chiederemo poi magari a lui direttamente questa evoluzione, perché io ho saltato qualche passaggio. Andy è diventato anche pittore, quindi è, diciamo, un artista veramente poliedrico. Assolutamente. Semmai, ecco, sì, una domanda che gli farei volentieri è l'invasione della dubstep nel rock, nel metal e anche nel pop. Bene, prendo nota. Una corrente strana che prende sempre più piede, strana perché insomma... perché insomma, se, ecco, stiamo vivendo la fase di passaggio in cui qualcosa che dall'underground esce fuori, no? Come è successo al punk e a tanti altri generi. Certo. Beh, l'evoluzione della musica bisogna poi accoglierla così come viene, senza forse neanche tante e troppe domande, no? No, alla fine non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Esattamente. Bene, senti, hai qualche altra chicca da segnalarci per questa settimana? Allora, sì, ovviamente non può mancare, perché sai che quando ci sei tu le serate burlesche a Palermo non so come mai. Ti sei fissato incessante. Allora, mi hai fatto litigare la scorsa settimana con la mia ragazza perché mi ha detto: senti, guarda che tu te ne vai al burlesco. Io ho detto: no, mai stato. Guarda, Francesco si è messo sta cosa in testa e adesso mette. Allora, voglio chiarire che purtroppo non sono mai stato al burlesque, mi piacerebbe, però insomma è comunque uno spettacolo molto educato, ecco, nella sua sensualità è molto educato. Tra l'altro, te lo dico anche tranquillamente, senza scherzarci troppo, piace molto alle donne, nel senso che se gli uomini insomma sperano sempre che la ballerina sbagli qualcosa, in realtà le donne che assistono al burlesque godono anche di uno spettacolo che è divertente e poi non è affatto volgare, cioè è fatto scimmiotta, sì, insomma, il burlesque dei primi del Novecento, ma è comunque uno spettacolo fatto con ovviamente fatto da donne che comunque sfruttano la loro femminilità al massimo, è pur sempre uno spettacolo. Certo, assolutamente. Vabbè, comunque secondo me sei tu quello fissato il burlesque, non io, tu mi prendi in giro, ma sei tu quello che ogni settimana ne parli. Ma cosa ti vuoi che ti segnali? Posso segnarti centinaia di migliaia di appuntamenti, veramente ce n'è davvero tanti. Alla fine, ripeto, dopo la pausa di carnevale, ovviamente sono ritornate le serate, anche il Winter Space, stasera c'è una piccola serata dubstep, sempre rimane in tema alla Vusciria. Per domani volevo segnare anche una cosa abbastanza interessante, se vogliamo. Esiste a Palermo, oltre l'università di Palermo, la libera pluriversità. Sì, spiegaci di cosa si tratta. Sì, è una sorta di università in cui puoi andare tranquillamente, non c'è un costo di iscrizione, se hai qualcosa da insegnare la puoi insegnare. Ah, che bello. E dove si trova? Allora, zona? Si trova in via San Polo. Via San Polo 56. Domani il consiglio particolarmente di andare alla libera pluriversità, perché c'è la rassegna Sinergia. Vedi, è complicata questa cosa. Insomma, in poche parole, trasmetteranno un documentario che ti fa realmente aprire gli occhi e ti fa vedere che esistono le alternative a quello che ci viene proposto. Non ti sto qua a dire Monti, Grecia, perché insomma, ne abbiamo sinceramente le palle piene per tutta la giornata. Decisamente. Però ogni tanto respirare con un po' di musica e con queste cose che aiutano la mente fa bene. Assolutamente, aiutano la mente come il rock and roll, caro Francesco. Sì, il rock and roll, quello tosto. Va bene, senti, noi ti ringraziamo anche questa settimana per essere stato con noi. Vuoi dare l'indirizzo del nuovo sito internet dove gli amici di Rock Revolution possono trovare i tuoi articoli? Sì, www.palermoreport.it. Ci sono delle belle sezioni di inchiesta che ho curato personalmente. Poi, la prossima settimana siamo quasi in clima 8 marzo, quindi qualcosa della donna da vedere in giro. Ovviamente lì mi sa che il problema l'avrai tu con la tua fidanzata nel momento in cui ti parlerò gli appuntamenti. Va bene, Francesco, ti ringrazio, appuntamento la prossima settimana, un braccio grande a tutti e un saluto di Malatempora. Bene, riporterò il tuo saluto, grazie. Un'altra bella canzone in arrivo. Volevo salutare e ringraziare Antonello con l'occasione. Si intitola Spiritualized, She Kissed Me. Around. I got a feeling it ain't coming down.

questa è una delle canzoni più gettonate in spiaggia ogni anno con la nostra radio, insomma, The Knack My Sharona, una dei classici di CRMP Radio all'interno di Rock Revolution. E adesso volevo portarvi a conoscenza di un progetto musicale veramente molto molto interessante. Parliamo di Fluon e abbiamo al telefono con noi il grandissimo Andy. Andy, buonasera, benvenuto a Rock Revolution. Buonasera. Apprezzo molto il fatto che non hai interrotto l'assolo degli Knack di My. Assolutamente. Almeno l'assolo va ascoltato tutto. Assolutamente, assolutamente. Una delle canzoni, come dicevo agli amici prima, più gettonate d'estate in radio, quando siamo in giro per le spiagge. Insomma, gli amici che seguono il nostro programma Rock and Roll, questa è una delle canzoni immancabili. Senti Andy, dopo la reunion dei Blue Vertigo torni a fare musica con un nuovo progetto. Sì, anche perché la reunion non è riuscita e quindi alla fine del progetto Blue Vertigo ho messo in pratica il mio nuovo, appunto, questo terzetto, questo tris che si chiama Fluon. Esattamente, noi volevo chiederti proprio questo discorso riguardo il tuo rapporto con i Blue Vertigo, perché tanti amici anche oggi pomeriggio in rete hanno fatto questa domanda, volevano un po' chiarita la tua situazione con gli altri ragazzi. Ma posso dirti, Morgan, per quel che mi riguarda, è morto, mentre Sergio e Livio sono cari amici con i quali probabilmente faremo prossimamente delle nuove belle cose. Bene, sei stato proprio chiarissimo. Sì, sì. Senti, allora parliamo subito, mettiamo da parte i Blue Vertigo, parliamo subito di questo nuovo progetto, vogliamo sapere ogni cosa, a te la parola quindi. Ti dico il vero, 9 anni fa ho scritto la canzone che è uscita su qualche giorno fa su iTunes, c'è anche un videoclip visibile su YouTube o su vari media che si stanno piacevolmente interessando. L'ho scritta 9 anni fa e si chiama Naked, e ci sono diversi brani che verranno fatti così sbocciare mano a mano. È un work in progress, proprio per ogni pezzo ci sarà un videoclip, un progetto a sé, e intanto cominciamo a fare i concerti. Siamo un tris composto da me, che appunto sto davanti e canto e suono i vocoder, i sintetizzatori e vari strumenti, poi alla console, diciamo la gestione delle basi elettroniche c'è Faber, mio socio da sempre nel laboratorio Fluon, e Fabio Mittino alla chitarra, proprio questo chitarrista veramente bravissimo, l'ho conosciuto anni fa, che è un, diciamo, un monaco della chitarra, proprio un super didattico che ha fatto parte del Guitarcraft, che è la scuola di Robert Fripp. Quindi queste accordature anomale, per cui la cosa più bella è che non c'entriamo niente l'uno con l'altro, ma siamo così diversi che quello che, come posso dirti, quello che è una blu vertigata da un lato, nel senso ognuno è talmente diverso dall'altro che ci mette all'interno delle clip, delle sonorità e delle idee per il quale è bello stupirsi l'uno dell'altro. Assolutamente, noi abbiamo ascoltato questo punto di partenza, questo brano come punto di partenza di questo tuo progetto, e il video tra l'altro è davvero bellissimo perché insomma è molto molto movimentato, ci sono tantissimi colori, notavo proprio questa caratteristica anche del suono della chitarra che in molte ritmiche si sente appena, è quasi un leggerissimo sottofondo con poi tutto il resto degli strumenti, dei sintetizzatori, che tra l'altro se ne vede uno nel video, adesso non so come si chiama esattamente, uno rettangolare, però immagino sia anche quello uno strumento di lavoro. Sì, sì. E poi c'è da dire che a livello ritmico le batterie sono state realizzate da Pat Mastellotto, che è il batterista dei King Crimson e ai tempi dei Mr. Mister, cioè uno comunque del goto della batteria, che dall'America, grazie a un'amicizia con Fabio Mitino, ci ha fatto le batterie dell'America sul brano con molto entusiasmo. Quindi diciamo è un progetto vero e assolutamente underground, anche per quel che riguarda il video, grazie all'ausilio di Roberto Monti, che è un mio caro amico, è tutto fatto in casa, per cui nel mio, io vivo in un capannone industriale dove c'è il mio studio, abbiamo messo i teli verdi, ci siamo messi a registrare il video, è tutto veramente fatto dalle forze e dall'entusiasmo. Lo stesso mix del pezzo Naked è stato realizzato da Marco Trentacoste, che è un bravissimo produttore fonico, che è così, molto in scioltese, del tipo, ma che bello, te lo mixo io. La spontaneità di questo progetto, a me piace quando, mi piace quando un progetto è vero, quando è mosso davvero entusiasmo, e quindi sto proprio perseguendo un percorso molto lineare, e abbiamo veramente voglia di suonare, voglia di portare la nostra sonorità dappertutto. No, ma è un progetto veramente molto interessante, anche perché proprio dal punto di vista sonoro ci sono degli accostamenti di musica, dietro si vede insomma che c'è un lavoro molto complesso, soprattutto insomma per quanto riguarda i sintetizzatori, la voce e tutto quanto. Senti, noi volevamo farti una domanda, una delle domande tra l'altro che gli amici su internet hanno indicato da farti: che tipo di relazione c'è tra le tue creazioni pittoriche e quelle musicali? In realtà è proprio questo, cioè l'uscita di Naked e l'inizio del lavoro dei Fluon è proprio quello che faccio in pittura. Cioè il laboratorio Fluon è un capannone industriale dove si creano quadri, si creano colonne sonore per la danza, piuttosto che si fa arte applicata, dove la pittura viene applicata anche al lavoro di certe aziende. È tutto un quartiere generale della creatività. Quindi io sto seguendo sempre lo stesso percorso creativo, sia che sia musica che sia un quadro, sono proprio le cose sono assolutamente unificate nel mio modo di vedere la pop art. C'è una parte artistica che magari ti ha dato maggiori soddisfazioni l'uno rispetto all'altra, la musica o l'arte? Fino adesso io sono soddisfatto più che soddisfatto sono entusiasta nel farlo. Io non ho più un punto d'arrivo o un obiettivo. Io sto vivendo tante esperienze, ci stiamo facendo un mazzo quadro, ma negli anni proprio ho perso l'obiettivo. Cioè la soddisfazione è, a mio parere, vivere secondo che ti piace fare, e questo è quel che mi piace fare. Sono assolutamente d'accordo. Senti, è prevista qualche data in Sicilia prossimamente? Ci avete pensato? Guarda, siccome poi siamo assolutamente indipendenti per quel che riguarda la discografia, anzi il mio editore nonché promoter discografico, nel senso quello che mi mette le tracce su iTunes, è un caro amico che è Luca Urbani con la Discipline Records. Lui suonava di Soerba tanti anni fa. Sì. E quindi siamo tutti in casa. Per quel che riguarda le date in Sicilia, spero che mi chiameranno. Magari noi stiamo già cominciando a fare i primi live, che sono una via di mezzo tra un DJ set e un concerto rock suonato. È un connubio abbastanza strano. Ecco, so infatti che tu ti diletti di tanto in tanto anche a fare il DJ. Beh, diletti è stato il mio mestiere per 12 anni. E sì, ho fatto per 12 anni DJ nei club, prima con le serate prettamente con una sorta di remake degli anni 80, repackaging dei miei anni 80 preferiti. Adesso mi sto dando molto di più alla minimal electro straniera. C'è qualche autore insomma che ci vuoi consigliare del genere, qualche novità, qualche anteprima, qualche chicca da regalare agli amanti del genere? Del genere, ma non penso di essere così pioniere. A me piace molto, mi piacciono molto questi Deadmau5, piuttosto che mi piace molto Rex the Dog come remixer. Non lo so, ci sono così tanti personaggi. L'uscita tra le più interessanti, che però non c'entra nulla con la minimal electro a mio parere ultimamente, è Pushifer, che è praticamente uno dei Tool che fa i dischi suoi con molta ironia e con proprio libertà creativa. Pushifer penso che sia uno dei progetti più interessanti ultimamente. Senti, ma pensate di rimanere, come dire, staccati un po' dalla logica del mercato delle major, o tutto da prendere in considerazione? Guarda, io purtroppo ho ancora un contratto in essere con la Sony per quel che concerne i Blue Vertigo, che però non ci sono più, almeno con me. Sì. Quindi di base ho cercato di avere tutte le liberatorie possibili, perché non mi interessa di avere a che fare con quello che è la realtà discografica delle major di oggi. Sì. Ti dico il vero, però, se dal Giappone una major fosse interessato a Fluon, magari se ne può parlare. Gusto, mi piacerebbe, però ecco, della realtà discografica italiana, che purtroppo ho frequentato dall'88 fino a una decina d'anni. Ah no, cos'era la reunion pseudo dei Blue Vertigo, cos'era, 4 anni fa? Sì, 4 anni fa. Ne faccio proprio a meno, cioè non mi interessa. Astenersi per di tempo. Comunque un'esplosione. Con l'indipendenza, cioè il fatto che ci stiamo sentendo io e te, ne stiamo parlando, è il manifesto di indipendenza. Assolutamente, assolutamente. Sei al telefono con me, con il mio cellulare, ecco. Non certo. Ci sono filtri, non ci sono perdite di tempo. Certo, no, ma infatti questa cosa è fantastica, e mi auguro insomma che molti artisti possano seguire il tuo sistema, il tuo metodo, perché mi sto accorgendo soprattutto che con questa nuova uscita tanti amici che lavorano anche in altre radio o TV eccetera si stanno molto aprendo e sono molto ben presi da questa mia voglia di indipendenza e stanno partecipando, per cui avrò la possibilità di divulgare la mia canzone in canali che magari non avrei mai sperato prima. Certo, assolutamente così, infatti anche la nostra radio trasmetterà la tua canzone, che tra l'altro ascolteremo anche subito dopo questa intervista. Okay. Andy, noi ti ringraziamo, ti facciamo grazie un grandissimo in bocca al lupo, magari speriamo di incontrarci presto in Sicilia dal vivo. Volentieri, crepi il cacciatore, buon tutto. Ciao Andy, grazie, ciao. Complimenti. Ciao, grazie. Su CRM Happy Radio Rock Revolution, il programma rock dedicato agli artisti emergenti. Lately I've been seeing things, belly button piercings in the sky at night when we're side by side. And I don't mean to rain on anybody's cabaret, one of those games you're gonna lose, but you wanna play it just in now. It's getting dark. nuovo progetto quindi per Andy, ex Blue Vertigo. Mi dispiace un po' sta cosa, che il fatto che per Andy Morgan è morto, insomma è un pezzo di storia italiana che si perde, quella del Blue Vertigo, però ben venga la musica nuova. Quindi tanti auguri ancora a Andy per il suo nuovo progetto Fluon. Abbiamo ascoltato Naked, primo brano, poi prossimamente, da quanto detto da Andy, avremo opportunità e piacere di ascoltare tanti nuovi, tante nuove canzoni, tanti nuovi brani, quindi siamo in attesa. Erano gli Arctic Monkeys. Adesso un altro grande classico, un evergreen della storia della musica internazionale. Su CRMP Radio, la radio che si sente e si vede, questo è Rock Revolution, anzi seguiteci dal sito crmpradio.it in audio e in video. Tra l'altro tra pochissimo anche una band qui in studio che suonerà dal vivo. Questa è Hold the Line. Una delle due canzoni più gettonate dei Toto, oltre ad Africa. Anzi, salutiamo gli amici, ce l'hanno richiesta su internet, però capirete, insomma, che possiamo fare tutta la serie Toto. Ci mettiamo in collegamento con la bella Napoli, scopriremo se è proprio Napoli città oppure provincia, per farvi conoscere un nuovo progetto musicale. Questa sera ci sono tante belle cose nuove di cui parlare e vi volevo presentare i Mantra. Buonasera, con chi sono al telefono? Ciao, io sono Davide, sono il bassista dei Mantra. Davide, buonasera, benvenuto a Rock Revolution. Buonasera a tutti gli ascoltatori e buonasera a te. Senti, non so se hai seguito l'intervista con Andy e la sua dichiarazione, insomma, del fatto che non gliene frega più niente dei Blue Vertigo. Chiaramente riferimento a Morgan. Tu conosci Blue Vertigo? Sì, conosco i Blue Vertigo. che tu ti piacciono, insomma, li ascolti o... Vabbè, ho ascoltato varie cose, sì, di tutta quella scena new wave italiana, insomma, fanno parte della mia, del mio bagaglio culturale, mettiamola così. Ah, ecco. Sì, quindi... ci sono delle cose che mi sono piaciute. Zero è un disco che ho apprezzato molto. E cosa ne pensi, il fatto appunto che basta, ormai è un capitolo chiuso dei Blue Vertigo? Beh, io penso che bene o male, anzi, secondo me sono d'accordo con lui, con Andy, in effetti... quando si dà tanto alla musica c'è bisogno di lasciare spazio ai giovani, no? Certo, assolutamente. Senti, visto che dobbiamo lasciare spazio ai giovani, facciamolo pure presentando questo vostro progetto. Quindi, se vuoi presentare, insomma, i Mantra al nostro pubblico. Va bene. Allora, noi siamo una band italiana che ha lavorato tantissimo all'estero. Ci chiamiamo The Mantra TSMM. La TSMM sta per Above the Spotless Melt Moon, che vuol dire il mantra al di sopra della luna sciolta e immacolata. In effetti ci siamo ritrovati fino adesso a lavorare molto di più all'estero che in Italia. Siamo stati, ad esempio, lo scorso maggio per un mese intero a New York, dove abbiamo conosciuto i produttori del Roseland Live a New York dei Portishead. Siamo stati in Inghilterra per una lunga tournée di una decina di date il mese scorso. Siamo stati in giro per la Grecia, altre volte in Inghilterra, in Svizzera, ma in Italia. Il prossimo tour che ci vedrà protagonisti inizierà soltanto a marzo, quindi possiamo dire di aver suonato davvero poco in Italia, soltanto nel sud. E saremo il gruppo spalla del Teatro degli Orrori. Ah, che bello, che abbiamo tra l'altro intervistato anche a Rock Revolution. Senti, da quanto tempo suonate assieme? Suoniamo insieme dal 2008, siamo quattro amici da sempre praticamente. Il batterista è il mio compagno di banco del liceo. Ah, che bello. Il chitarrista, giocavamo a calcetto insieme ai tempi delle scuole medie. Uh-huh. E con la cantante, insomma, ci conosciamo sin dall'adolescenza. Adesso abbiamo circa 24-25 anni di media. E niente, siamo stati prima amici per un lungo periodo di tempo e musicisti in varie band. Uh-huh. Abbiamo studiato musica e poi abbiamo deciso di formare. È un bel giorno, è un bel giorno, vi siete uniti. Senti, volevo chiederti cosa ne pensi della scena musicale del napoletano, anche un po' di quella italiana. Insomma, pensi che stiamo viaggiando in acque calme oppure? Stiamo viaggiando, secondo me, in acque bellissime, perché riguardo alla nostra esperienza, che è fatta soprattutto di concerti all'estero, posso dire che la qualità delle band che abbiamo oggi in Italia, specialmente nel sud Italia, nella nostra, parlo della nostra città perché è quella che conosco meglio, quindi di Napoli, certo, è notevolmente superiore a quello che ritroviamo in giro per il mondo. Se si va a suonare a New York o si va a suonare a Londra, incontriamo delle band che bene o male cercano di omologarsi a quella che è la tendenza del momento. Invece abbiamo molta più varietà da noi e probabilmente, poiché c'è poco spazio, un'esigenza espressiva più forte, e questo fa sì che c'è tanta qualità. E mi fa piacere dirlo perché... No, è bello. È bello sentirtelo dire, perché noi generalmente, insomma, molta gente si lamenta del fatto che purtroppo non c'è molta vita da questo punto di vista. Invece, ma non ci sono molti, non c'è molta rete purtroppo. Uh-huh. Questo ci sono. Allora, posso dirti che posso farti i nomi di vari artisti. questo posso farlo che ho visto. Che ne so, a Napoli c'è un cantatore che si chiama Giovanni Bloch, che ha vinto il premio Tenco, però non gli siamo spazio per esprimersi. Certo. Oppure c'è un cantatore italo-americano che si chiama Joe Martone, che stimo moltissimo, che ha lavorato in Inghilterra ed in America, invece ha mixato con un tipo che ha mixato gli ultimi lavori dei Smashing Pumpkins. Quindi c'è tantissimo in Italia, nel sud Italia, ci sono gli Umare che hanno vinto Arezzo Wave. Insomma, ci sono veramente tantissime realtà, e purtroppo non esiste un canale che riesca a promuovere la musica al sud, in quanto non ci sono molti addetti ai lavori del sud, purtroppo. Però stiamo cercando, bene o male, di, un po' come abbiamo fatto noi, di farci conoscere al pubblico, cercando delle collaborazioni, così come sarà la nostra col Teatro degli Orrori, facendo il gruppo spalla per varie tappe del tour, insomma, e cercare di esporre questa bella realtà che si sta creando nella nostra regione, insomma, un po' in tutta Italia. Bene, speriamo insomma le cose vadano sempre di bene in meglio. Davide, volevo parlare assieme a te del vostro album Ghost Dance, uscito ormai da pochissimo. Come è stato accolto dalla critica? Quali sono gli argomenti che toccate all'interno delle vostre canzoni? Chi li scrive? Quanta della vostra vita quotidiana e quale è quella dei mantra è contenuta in essi? Guarda, allora, praticamente posso dirti che il 100% della nostra vita è incentrata sui mantra. Basta pensare che ho studiato medicina per 3 anni ed ho abbandonato da un paio d'anni soltanto per dedicarmi a questo progetto che ormai ha preso al 100%. In effetti posso dirti che Ghost Dance, anzi posso dire a tutti gli ascoltatori che Ghost Dance è il nostro secondo disco e sarà distribuito in Italia da Goodfellas, quindi si troverà in tutti i negozi di dischi. E niente, con questo disco abbiamo cercato di rivendicare quel senso di appartenenza alla nostra terra. In effetti già dal primo brano, che si chiama Ezzor Tales, iniziamo a parlare di quelli che sono i vari fantasmi che albergano nella nostra città. Il primo di tutti è appunto il Vesuvio, si chiama Ezzor Tales, che in inglese vuol dire testo croce, il primo brano. Mm-hmm. E praticamente andiamo a parlare proprio della scommessa che un napoletano fa, vivere o meno accanto a un fantasma così grande come quello del Vesuvio. Si parla tanto del fatto che, infatti, si parla tanto del fatto che è come una bomba che sta per esplodere. Che speriamo non esplodere. Infatti. Siamo andati a incentrare varie tradizioni, come ad esempio in Arlecchino in cura della maschera, e abbiamo fatto una sorta di lavoro nel quale andiamo a interiorizzare questa sensazione di di frustrazione che si vive nella nostra terra tramite appunto le varie immagini, che possono essere quella di un Blue Army, che vuol dire esercito della malinconia, oppure quella del Vesuvio, oppure quella di Arlecchino in una maschera, oppure quella del malato papà. Insomma, siamo andati a cercare vari personaggi, vari caratteri che in un certo qual modo identificano i nostri stati d'animo quando ci riferiamo alla nostra terra. Davvero molto bello il messaggio che comunicate. Adesso invece noi ascolteremo Constellations. Di cosa parla questa canzone? Beh, Constellations è il singolo italiano e parla della visione notturna della nostra città. In effetti è una canzone che abbiamo scritto ritornando da un concerto che facevamo, credo, 300-400 km a sud di Napoli, e siamo ritornati a casa intorno alle 6 del mattino. Invece di tornare a casa ci siamo fermati. Uh-huh. E stiamo messo a scrivere una canzone, è stato proprio così. Siamo bellissimo, fermati. Bellissimo. E niente, c'era l'alba che sorgeva, e abbiamo assistito a questo panorama fantastico, perché c'erano ancora molte, era un sabato sera, quindi c'erano ancora molte macchine che circolavano nonostante l'orario. E niente, praticamente siamo andati a giocare con queste costellazioni di automobili che poi vi farò scoprire nel brano. Insomma, e niente, siamo fermati, abbiamo scritto questa canzone. Tutti insieme, come al solito, lavoriamo sempre tutti insieme. Poi logicamente i testi hanno una rielaborazione successiva, però insomma siamo spesso ispirati da cose che ci accadono nel quotidiano. È giusto, d'altra parte, insomma, la vita quotidiana. Senti Davide, arrivano dei messaggi su Facebook, dei saluti, c'è scritto, adesso io il mio napoletano, insomma, è veramente maccheronico, dice facimma impress waglio we siamo a Napoli paesà. Vabbè, arrivano un po' di messaggi folcloristici. Allora posso approfittare per dire un grandissimo Forza Napoli a tutti questi amici napoletani, che è stata l'ottima prestazione con il Chelsea. Infatti, grandissimo. Siamo tutti tifosissimi della nostra squadra, della nostra città. È giusto, grandissima Napoli. Senti Davide, com'è possibile arrivare al vostro progetto, cioè su internet come possiamo trovarvi? Bene, allora ti chiedo prima di tutto di fare una cosa, di postare la nostra pagina Facebook sulla vostra. Molto volentieri. In modo che tutti possano raggiungerci. E il sito è Facebook, è www.facebook.com/TheMantra, THEMantra, TSML. Perfetto, adesso noi posteremo subito, niente, chiaramente. Sarà facilissimo raggiungerci e mettersi in contatto con noi, siamo sempre disponibilissimi a qualsiasi confronto. con tutte le realtà, insomma. Perfetto, senti, colgo l'occasione per salutare anche Elena della Lunatic, la vostra agenzia. Vi ringraziamo, adesso ascolteremo quindi questa vostra canzone. Un grandissimo in bocca al lupo, speriamo di incontrarci presto in Sicilia, anche per voi questa cosa vale, insomma. Assolutamente, ne saremo il 12 maggio a Messina, al 5 quarti. Ah, perfetto, perfetto. Allora, vedremo di raggiungervi per conoscerci di persona, va bene? Va bene, perfetto. Grazie Davide. Ciao ciao. Buona serata, forza ciao. Napoli. Forza ciao. Napoli. I Mantra quindi con Constellation Rock Revolution, la musica italiana, la musica emergente, su CRMP Radio, quindi eccola per voi. I could never go Kings of Leon, Beach Inside. Molti di voi non li conoscono. Comunque loro sono un gruppo rock americano formatosi a Franklin nel Tennessee, nel lontano, relativamente chiaramente, 1999. È composto dai fratelli Caleb Following, Ivan Nathan Following e Michael Jale Following. E il sound dei loro primi anni e dei primi lavori è molto influenzato dal southern rock e dal blues, ma gradualmente hanno incluso nel loro stile una varietà di generi che va dall'alternative rock all'arena rock. Adesso arriva il Rock for You, 4 successi rock in sequenza senza interruzioni. Se il rock è la tua passione, non mancare all'appuntamento di ogni venerdì alle 21 su CRM con Rock Revolution, il programma rock di CRM con ospiti, interviste e speciali su artisti emergenti e sui big del mondo della musica nazionale e internazionale. Rock for You, 4 successi rock in sequenza senza interruzioni. Rock for You, 4 successi rock in sequenza senza interruzioni. Make another man sing. Change your heart. Rock for You, 4 successi rock in sequenza, senza interruzioni. You, 4 successi rock in sequenza senza interruzioni. You're just a mother. Questo era il Rock for You di questa settimana. Quattro successi rock in sequenza senza interruzioni. Come avete sentito, insomma, grandissimi brani della storia della musica rock di tutti i tempi. È arrivato il momento dell'intervista della settimana. Ladies and gentlemen, Rock Revolution ha il piacere di presentare gli ospiti della settimana. E proprio così abbiamo il piacere di presentare questa sera da Palermo i Mala Tempora. Ciao, ciao. Buonasera ragazzi. Ciao. Benvenuti a Rock Revolution. Alla presentazione abbiamo Giovanni Liguri o Liguri? Liguri. Liguri. Alla voce, non sbaglio sempre, c'è Gabriele Confaloni, chitarra elettrica, Marco Presti Filippo, chitarra acustica, Pietro Delfino, basso elettrico e Andrea Kentres o Centres. Chantre. Ecco, quindi per gli amici che ci seguono in webcam potete vedere, ecco, le sono già preparati con i loro strumenti musicali pronti perché questa sera suonerete dal vivo. Per noi in versione acustica, prima volta in versione acustica? Sì, sì, prima volta. Ecco, ricordatevi di usare il microfono, altrimenti a casa non sentiranno una mazza. Quindi se volete parlare fatevi passare il gelato, così potete, ecco, comunicare con i nostri amici ascoltatori. Allora, parliamo delle vostre origini e cominciamo con le presentazioni per gli ascoltatori che ancora non vi conoscono. Parliamo di NZ, primo brano inedito della band, dedicato al vostro amico scomparso a settembre dello stesso anno, Norman Zarcone. Dalle iniziali il nome, il titolo, a voi la parola. Sì. NZ appunto sono le iniziali di Norman Zarcone, al quale abbiamo dedicato sia il brano inedito, un brano scritto circa un anno e mezzo fa. Abbiamo scritto NZ e l'album è dedicato a lui. È dedicato il nostro primo album e l'abbiamo dedicato pure a lui. Era un nostro grande amico, un nostro fraterno amico. Ed è stato molto difficile comunque fare tutto questo. Non certo, certo. Assolutamente. Senti, vogliamo introdurre agli ascoltatori che non vi conoscono ancora chi sono i Mala Tempora, che musica fanno? Sì, i Mala Tempora, intanto prendiamo spunto un attimo dal nome Mala Tempora. L'abbiamo preso per, come dire, rispecchiare un po' la situazione della nostra società al giorno d'oggi. La situazione reale, ecco. Ed è tratta da una frase di Cicerone, mala tempora currunt, quindi corrono brutti tempi, e penso che sia una molto cosa attuale. Sì, molto molto molto attuale. Molto, ecco, attuale. Sentite, voi fate questo per mestiere oppure per hobby, vi dilettate, insomma, tempo permettendo, alla musica? Allora, noi abbiamo cominciato questo come passatempo, ma adesso stiamo entrando proprio nell'ambito lavorativo. Mm-hmm. Sotto questo punto di vista adesso vogliamo concludere qualcosa, diventare qualcuno, ecco, dire la nostra sotto il punto di vista lavorativo. Bene, ci sono i presupposti per farlo, perché comunque la vostra musica è molto interessante. Anzi, direi subito di andare ad ascoltare e riflettere su questa loro musica con Riflessioni Notturne. And La notte senza dubbio è uno di quei momenti dove si riesce a riflettere meglio su tante cose, no? Poi anche il sonno porta consiglio, si dice, no? Sì, riflessioni notturne, una canzone tratta da una poesia di Charlie Chaplin, Abbracciare la vita. E appunto questa poesia è un inno alla vita. Davvero molto bella, anche dal punto di vista musicale, oltre al testo chiaramente. Ci sono dei messaggi per voi, ce n'è uno di Laura, dice: ciao cugino Pieruccio. Chi è che ha un cugino? È lui, il bassista. Ecco, sei tua cugina che ti sta seguendo, sì, se volevi. Cugina di Pino, gli Albanesi. Saluto calorosamente. Bene, sappiamo che ci sono tanti amici su a Piano degli Albanesi ci ascoltano. Poi c'è anche Liana, bravissimi. Gioia84, ti amo. Ciao mamma. Ecco. Vabbè, amici e parenti, ecco, se volete interagire con Rock Revolution, 335 56 37 251 è il numero per gli SMS, oppure tranquillamente su Facebook nel nostro profilo Rock Revolution Redazione. Ragazzi, parliamo di quelle che sono state le vostre esperienze, la storia dei Malatempo. Cosa avete fatto in questi anni assieme? So che avete avete presentato un brano alla finale di Sanremo Rock del 2010. Se ci volete parlare anche di questa esperienza. Sì, siamo andati a Siena, mi pare che è stato. Sì, siamo andati a Siena, abbiamo presentato appunto NZ, la canzone, che ha riscosso grande successo, diciamo. Eravamo un po' fuori ambito, perché lì c'è Sanremo Rock, però non era proprio Sanremo, ecco. Certo, cioè, attenzione, c'erano gruppi metal, rock pesante. Le selezioni per poi andare. Comunque abbiamo riscosso un grande successo, soprattutto per le parole del testo, che poi sentiremo. Bene, io volevo chiedervi, siccome alcuni amici su internet dicono: ma quanto parlate, vogliamo sentire la musica di sti ragazzi. Allora, oltre ad aver ascoltato quella registrata in studio, registrata in Sicilia, oppure avete fatto... No, in Sicilia. Andiamo ad ascoltare subito una bella canzone dal vivo. Voi avete portato stasera un bel po' di strumenti, chitarre, sì, cajon, piatti e forchette. E allora, cosa ci fate ascoltare dal vivo? Facciamo ascoltare un Giudice di De André, una cover che abbiamo riarrangiato in maniera diversa, diciamo, da un po' di cover che ci sono in giro. Bene, siamo curiosi di ascoltare quindi Malatempo, la Rock Revolution, questa bella canzone dal vivo in versione acustica. Buon ascolto. Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Ve lo rivelano gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Tra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni e i mesi e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. Nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore, ma chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio. Prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, l'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio, non conoscendo affatto la statura di Dio. Complimenti ragazzi, oh mamma che energia, che elettricità che si viveva qua dentro lo studio. Purtroppo non so se è arrivata anche in radio oppure in web tv, però veramente una bella energia e una bellissima interpretazione. Ci sono dall'altra parte anche i complimenti al nostro editore, quindi ecco. Grazie. Ah, ma voi state facendo la festa dall'altra state parte. Brindando, bravi. Portata da questa parte. complimenti. Allora, i Malatempora a Rock Revolution, una band palermitana davvero molto interessante. Parliamo di temi ricorrenti nei vostri testi, nelle vostre canzoni. A cosa ci si ispira quando viene scritta una canzone dal punto di vista musicale? Chi è che la idealizza? Chi è che scrive le parole? Le parole le scrivo quasi sempre io, però dico, certe volte appunto prendiamo spunto anche da poesie, testi, libri scritti, da tante cose. E quando si scrive però si ispira molto, ecco, alle emozioni. Dipende dallo stato d'animo in cui appunto qualcuno si trova per scrivere una canzone. Dipende tutto dalle emozioni. Tutti d'accordo? Ecco, volevo sentire anche la voce un po' degli altri ragazzi che sono qui con me in studio. Riesco a esprimere ovviamente dei pareri che ognuno ha e metterli trovati in musica, insomma, dei pensieri che uno ha e provarli a mettere in musica, insomma. Tu, solamente la batteria, il caon viene utilizzato generalmente anche durante le vostre esibizioni oppure è una cosa speciale? No, generalmente noi suoniamo sempre in elettrico, in questo caso particolare, però nulla di strano che poi si può sicuramente provare qualcosa. No, ma infatti perché è davvero molto bella questa interpretazione, tra l'altro. Sì. Sentiamo anche lui, se non abbiamo sentito nulla perché non c'era il microfono. Sì, appunto, questa è la prima volta che veniamo a suonare in acustico. Vi è piaciuta? Vi è piaciuto? Sì, chissà, magari possiamo avere un altro progetto in parallelo. Ecco, una versione acustica. Sai, Marilyn Manson ha fatto il disco normale, poi il bonus disco e tutte canzoni acustiche. Quindi, ma Marilyn Manson c'ha i soldi. Vabbè, lui c'ha i soldini. Io non ce l'ho. chiaramente. Non ce li abbiamo. Senti, ti arrivano tanti messaggi su internet. Volevo salutare allora Giusy che dice: siete mitici, grandi, unici. Ciao, continuate così, vai Malatempora, ciao. Ciao anche a te Giusy, buon ascolto. Poi ancora Veronica dice: siete splendidi come sempre. PS, Marco ti amo. Oh, questo è vero. Non è la mamma, stavolta è vero la fidanzata. Beh, stavolta è vero. Ma Giovanni, ma lui voleva fare un saluto quella particolare, era mia se non sbaglio. Sì, sì. Sentiamo. Volevo salutare la mia ragazza. Ah, prego, fai pure. Ciao Ugo, ti amo. Sto scherzando. Senti, Rossi, stasera Rossi. I parenti veramente vi stanno dando una grandissima mano. La zia Mariella ti augura tanto successo. Ma chi è la zia Mariella? Sempre mia zia. Ah, tutta la famiglia. Ci segue tutta la famiglia. Allora, visto che sono tutti all'ascolto, non possiamo assolutamente non mandare una bella vostra canzone. Parliamo di Sono andato via. Da dove sei andato via? No, non è meglio non dirlo. Dopo la spieghiamo. Dopo la spieghiamo. Lo ascoltiamo in malatempora, Rock Revolution in diretta su CRM Pirelli, la radio che si sente e si vede sempre molto sensibile alla musica emergente, alla musica italiana, ma anche ai grandi artisti. Questa sera abbiamo parlato con Andy dei Blue Vertigo. Anzi, non dobbiamo proprio più nominare i Blue Vertigo, altrimenti se ci sta continuando ad ascoltare ci mena. E quindi malatempora, sono andato via. Questa notte canto a te. Io adesso capisco perché arrivano tanti messaggi d'amore, perché come una canzone così bella, tra l'altro un altro messaggio, Rosy, Giovi ti amo, sei contento? Questa è la mia ragazza veramente, dai. La tua ragazza. Senti, allora ragazzi, abbiamo ascoltato un bel po' di musica. Posso spiegarti quella perché sono andato via? Assolutamente, allora, ci tengo. Se ascolti un po' il pezzo centrale, dice: pensa mio amore questa notte accanto a te, e per avermi un po' vicino chiudi gli occhi e stringiti il cuscino. Allora ciò che significa che questa persona realmente non c'è. È andato via. Quindi è questo il senso della canzone. È un po' una carezza in un pugno di Adriano Celentano. Bravo, però fatta moderna. Okay. È molto più bella. Bene, bene. Senti, adesso dobbiamo dalle vabbè, risate. Celentano non canta più, fa solo. Fa un po' solo polemica, sì, effettivamente. Senti, insomma, l'allegria e il piacere che abbiamo nel parlare di questo, dobbiamo tornare un po' a essere seri, perché adesso ci mettiamo in collegamento telefonico con un vostro caro amico, il papà di un vostro caro amico, nello specifico parliamo del papà di Norman. E quindi vediamo se siamo pronti con il collegamento. Pronto, buonasera. Pronto? Buonasera, benvenuto a Rock Revolution. Salve ragazzi. Allora, abbiamo questa sera con noi dei suoi cari amici, gli amici di Norman. Sì. Sono in mala tempora. Sì, con loro ho anche avuto delle collaborazioni musicali in alcuni pezzi, che sono veramente dei ragazzi stupendi dal punto di vista umano e anche professionale, guarda. Io volevo lasciare la parola a lui per spiegare un po' questa chiamata, questa telefonata. Sì, la canzone è dedicata a suo figlio, quindi era doveroso farvi spiegare un po' chi era Norman da lui, che era il padre, lo conosceva bene, e il motivo del suo gesto un po', ecco. Ecco, un po' volevamo, tutta la storia. Volevamo chiederle, ecco, in brevemente, insomma, chi è Norman, cosa è successo, perché magari tanta gente purtroppo non sa. Norman era un ragazzo che aveva due lauree con 110 lode in filosofia. Era il terzo e ultimo anno del dottorato, quando ha capito che l'ambiente dell'università, come l'ambiente del lavoro, della politica e molti altri ambienti, era marcio dentro, ha voluto lanciare un grido. Purtroppo l'ha lanciato lanciandosi dal settimo piano della sua facoltà, e ci ha lasciato in eredità il suo messaggio come un lascito testamentario, che era un messaggio di legalità e di meritocrazia. Norman suonava pure con alcuni dei ragazzi dei Malatempo, soprattutto con Giovanni e con Gabriele. Con Gabriele ha composto anche una colonna sonora. Avevamo scritto una canzone dedicata a Falcone Borsellino pochi giorni prima che egli morisse. Norman è cresciuto sotto le insegne di Falcone Borsellino, della legalità, della meritocrazia, dell'antimafia, e questo messaggio è stato anche accolto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ci ha ricevuto. C'era anche Giovanni con me e con mio padre dal Presidente della Repubblica quando siamo stati ricevuti. Molta gente adesso si interessa di Norman. Il 16 aprile verrà presentato il libro che io ho scritto su Norman, finanziato dalla provincia di Palermo, verrà presentato a Palazzo Jung, poi ve ne daremo notizia. Norman è diventato generazione Norman, perché è il simbolo di una generazione di talenti, di cervelli costretti alla fuga, molte volte di gente che non può trovare lavoro, di gente che si trova costretta ad ascoltare parole incomprensibili come spread, che non significano un cazzo, quando diversamente tutti hanno dimenticato la parola più importante sulla quale si fonda la nostra Repubblica, che è il lavoro. L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, non ne parla più nessuno, né a destra né a sinistra, pensateci bene. Assolutamente d'accordo. Senta, noi siamo assolutamente contenti di ricordare Norman, è un motivo per pensare, per riflettere senza dubbio su quella che è la nostra società, la società in cui viviamo. Forse certe volte bisognerebbe fermarsi un pochettino e riflettere più sulle cose che accadono, penso. Sicuramente gli artisti palermitani, ma non solo, i ragazzi che si dedicano alla musica, con la musica vogliono comunicare qualcosa, è importante anche nel ricordo di Norman. Sì, questo è fondamentale. Un'ultima cosa, la musica, come quella che fanno i Malatempora, è uno strumento per uscire dalla narcosi, cioè sono narcotizzati questi ragazzi, molte volte sono gli stessi giovani che subiscono supinamente, capisci? Sono come cloroformizzati. Ecco, la musica è un modo anche per vegliare le coscienze e per risvegliare. È il messaggio di Norman. La musica, tutti noi che ne stiamo parlando, stiamo dando una mano a svegliare queste coscienze, coscienze dall'assopimento. Assolutamente d'accordo, volevo farle un applauso. Claudio, si uniscono anche ragazzi, gli amici. Io bene, anche voi della radio, ragazzi, un mondo di bene, sempre a vostra disposizione. Grazie, bacione, grazie ciao. Tantissime. Adesso ciao, i ragazzi suoneranno una canzone per Norman, per noi e anche per lei, quindi la invitiamo a seguirci ancora. Grazie, buona serata. Beh, bene, è caduta la linea. Lo salutiamo, lo ringraziamo, ragazzi. Quindi non c'è da aggiungere altro. Secondo me, andiamo ad ascoltare questa ultima canzone, NZ dal vivo. Ascoltatela molto per la prima volta in acustico. Benissimo, buon ascolto. In Malatempo, la Rock Revolution. Disteso qui sul letto penso a te, mentre guardo il soffitto. Parlo con te, ma risposta non c'è. Notti trascorse a parlare, seduti in quel caffè. Discorsi senza un senso, facevamo io e te. La vita ci guardava, la storia passava. La chitarra che suonava e la morte ti attendeva. Libero tu, adesso sei di amare. Pensare col tuo pensiero, sei stato libero di vivere e morire. Hai trovato la tua pace, colmato la tua sete di conoscenza, sfidando la vita e superando la tua essenza, la tua essenza, la tua essenza. Il cielo stellato sopra di te, e la legge morale dentro te, dentro te, dentro te. Libero tu, adesso sei amare, di pensare morire. E se per viverti devo sognare, non svegliatemi. E se per viverti devo sognare, non svegliatemi, svegliatemi, svegliatemi. Ciao compà. Ciao Norman, ragazzi, davvero complimentoni per il vostro progetto e per la vostra musica. Qual è il miglior complimento che vi hanno mai fatto? non si è sentito, aspetta, il microfono. Tieni. Qual è il miglior complimento che vi abbiano mai fatto? Quelli che ci hanno scritto qua stasera. Oh, fai schifo. Tra l'altro, sono davvero tanti messaggi, volevo leggerli. C'è Giusy che dice: una richiesta cantate. NZ l'hanno appena fatto. Grazie, grande Claudio, grande Norman. Poi ancora una richiesta. NZ l'abbiamo messa sempre. Stefania, vai Piero, sei tutti noi. Un bacio da Stefi, Luca e gli zii, la nonna. Viva in malatempora, in bocca al lupo. Insomma, un bel po' d'affetto e anche di sostegno delle vostre famiglie. Sì. Questo credo sia la base per avere questo la spinta. Questo è quello che non ci manca, ecco. Ecco, questo è importante, però sono sicuro, insomma, che riscuoterete nel prossimo futuro grande successo, perché ci sono le basi, c'è la musica, ci sono le parole, ci sono i contenuti, quindi non manca nulla. Si tratta soltanto di riuscire a trovare l'indotto giusto per poter arrivare al successo, e noi ve lo auguriamo di cuore. Grazie. Bene ragazzi, allora in bocca al lupo, ci teniamo aggiornati sul vostro MySpace, che è myspace.com malatemporance con la NZ finale. Sì. Poi penso siete anche su Facebook per chiunque ovviamente volesse contattarvi. Sì, su MySpace c'è anche la vostra musica. Sì, c'è NZ. Una cover di Don Bachi. Sognando. Riarrangiata sempre da noi. Bene, davvero molto interessante. Potete passare il microfono, così fate i saluti, insomma, e chiudiamo l'intervista. Ciao. Gabriele. Ciao. Marco. Ciao a tutti, ciao Veronica. Andrea. Ciao, grazie a tutti. Piero. Spaghetti per una notte. Giovanni. Ciao amore Giovanni. Mio. Ciao. Bene, ragazzi, complimentoni ancora, buon ritorno grazie a Palermo, a tutti, speriamo grazie, di vederci presto. Grazie per averci invitato qui stasera. È stato un piacere, è un onore, devo dire, veramente. Grazie, ciao, ragazzi. Ciao. Rock Revolution continua, adesso arriva il Rock Revo Live, lo spazio dedicato ai due live di grande successo della storia della musica questa settimana, gli Eagles e i Rem. bedroom dim, had to stop for the night. Then she stood in the doorway, heard the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up the candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. Such a lovely face. There's plenty of room at the Hotel California. Any time of year, any time of year, you can find it here. Her mind is Tiffany twisted. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys she calls friends. They dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I called up the captain, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far. Such a lovely place. Living it up at the Hotel California. What a nice surprise. What a nice surprise. Bring your alibis. Mirrors on the ceiling. Big champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. In their master's chambers, we gathered for the feast. Stabbing with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was. Check out anytime you like, but you can never leave. Revolution Live. That's great. It starts with an earthquake, birds and snakes, an aeroplane. Mini Bruce is not afraid. I have a hurricane. Listen to yourself. Turn world, serves its own needs. Dummy serve your own needs. Speed it up an ox. Speed grunt, no strength. The ladder starts to clatter with beer. Fight down high. Wire and a fire represent a seven games. Government for hire and a combat site. Left or west coming in a hurry with the fairies breathing down your neck. Team by team reporters babble. your heart bleed, dummy, with the rapture and the reverend in the right. You vitriotic, patriotic, slam book, neck bite, feeling pretty sight. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. I feel fine. 6 o'clock TV hour, don't be caught in foreign towers. Slash, burn, return, listen to yourself, churn, locking in uniform and book, burning blood, let every motive escalate. Automotive scenery, light a candle, light a motive, step down, step down. Your heel crush, crust, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear. Tournament, tournament, tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. Questo era il Rock Revolution Live, i due successi rock dal vivo, due fantastiche canzoni, chiaramente Hotel California degli Eagles e poi Is the End of the World as We Know It dei Rem, che poi è stata anche coverizzata da Luciano Ligabue con A che ora la fine del mondo, l'avrete sicuramente intuito. E questo era Rock Revolution Live, adesso la musica continua con un'altra grande interprete della musica internazionale, una voce fantastica. Parliamo di Ida Maria e questo è Oh My God. Find a cure for my life, find a cure. Find a cure for my life, find a cure. Find a cure for my life, find a cure. Find a cure for my life, oh my God. Put a prize on my soul, put a prize, put a prize. cure for my life and cure. Find a cure for my life, put a prize. Put a prize on my soul, put a prize. Put a prize on my soul, build a wall. Build a fortress round my heart. L'energia di Ida Maria con Oh My God su CRMP Radio, la radio che si sente e si vede. Questa sera con Rock Revolution vi teniamo compagnia con la musica emergente, la musica nuova, ma anche grandi successi del rock di tutti i tempi. Volevo ringraziare tutti voi ascoltatori su internet, ma anche in radio, che ci state seguendo dal nostro sito crmpradio.it o dal sito del nostro programma rockrevolution.it, dove ci potete seguire oltre che in audio anche in video streaming. Continua la musica. Ancora una mezz'oretta da passare in nostra compagnia. Adesso un grande classico. Parliamo di Elvis Presley con Jerry Lee Lewis. E questa è la fantastica, intramontabile Bebop Lula. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, tell me maybe. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, tell me maybe. Bebop Lula, she's Well, she's the girlie with the tight blue jeans. She's the chick that knows everything. She's the girlie that will shake that thing. She ain't got no time for me. Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean baby. That knows everything. She's a chick that I love so. And when we start to kiss, then where we go, go, go, go. Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't mean baby. Bebop-a-lula, she's my baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Bottle. Back con How You Remind Me, brano del 2001 contenuto all'interno di Silver Side Up. Tra l'altro ha raggiunto la vetta della classifica statunitense Billboard 100 Hot, quindi un bel riconoscimento, e la top 10 di diverse nazioni, con appunto tra le quali l'Europa, l'Australia e anche l'Italia. La musica continua, arrivano adesso due brani in sequenza, i Green Day, a noi molto simpatici, e poi Eddie Coran, una coppia davvero molto molto particolare, ascoltata tutta ad un fiato su CRM Happy Radio con Rock Revolution. Compromise.

Player, ma da quanto tempo non ascoltavo i Player? Baby Come Back, canzone prettamente Village People. Volevo salutare anche gli ascoltatori poi che ci seguono il sabato pomeriggio. Volevo ricordarvi inoltre che potete scaricare poi i podcast delle puntate di Rock Revolution sempre dal nostro sito internet rockrevolution.it, dove trovate anche tutte le foto e i video e i contenuti insomma che registriamo durante le varie dirette. Quindi se avete, se vi siete persi qualcosa, non vi preoccupate, perché soprattutto se siete senza lavoro e che avete del tempo da impegnare, fatelo pure. No, è un tentativo di legare la frase agli Offspring. Why don't you get a job? Perché non lavori? Bella domanda, ragazzi, di sti tempi. Stavo leggendo insomma un po' il contenuto di questa canzone degli Offspring, contenuta all'interno del Greatest Hits 1999. Praticamente la canzone è cantata in prima persona da un ragazzo che si rivolge ad un amico. Questo amico mantiene una ragazza molto spendacciona che lo minaccia costantemente di andarsene se lui non sborsa soldi in continuazione per lei. Il cantante consiglia all'amico di dire alla sua ragazza di non pagare e di trovarsi un lavoro. I won't pay, no way, why don't you get a job? Il cantante però ha un'amica a cui si rivolge nella seconda parte della canzone, in questo caso è l'amica che mantiene il suo ragazzo. Insomma, delle situazioni un po' anomale, però sempre molto frequenti, soprattutto di questi tempi, quando purtroppo nelle coppie non tutte e due le persone lavorano, e quindi vuoi non vuoi. Salutiamo Daniele che ci segue. Ciao Daniele carissimo, buon ascolto, grazie per i complimenti. Complimenti anche a te perché hai scelto Rock Revolution per questa sera. Arrivano in Nada Surf, enjoy the silence. Trivial pleasures remain, so does the pain. Words Revolution su CRMP Radio. Non mi stancherò mai di ricordare il nostro sito internet, in modo tale che se avete una band, vi piace far musica, volete far conoscere in radio il vostro progetto, scriveteci redazione @rockrevolution.it oppure visitate il nostro sito rockrevolution.it. Prossima canzone, andiamo a ripescare un bell'album, The Killers. L'album era Hot Fuzz, canzone molto discussa dal punto di vista politico. Non vi dico altro, non passatevi il tempo su Wikipedia. E quindi Killers con Somebody Told Me. Era sempre un posto molto attivo musicalmente, un luogo sempre molto interessante e creativo. I Killers E adesso invece Katrina and the Waves, saltiamo al 1983 con un brano che è stato tra l'altro anche colonna sonora di un noto film, Senti chi parla, con il mitico John Travolta. Tra l'altro ieri sera hanno fatto Pulp Fiction, film eccezionale. E questa è Walking on Sunshine. Che bella musica che abbiamo ascoltato questa sera, musica emergente, Malatempora, poi abbiamo ascoltato anche la band da Napoli, i Mantra, poi abbiamo ascoltato anche Andy dei Blue Vertigo, ex Blue Vertigo, con il suo nuovo progetto musicale Fluon. Anzi, se volete andate a dare un'occhiata, www.myspace.com, sì, scusate, /Fluon, proprio così come l'ho pronunciato. C'è anche un video, tra l'altro, abbiamo postato sul nostro profilo, molto bello, molto originale. Ultima canzone di questa sera, passiamo e concludiamo con i Vanilla Sky. Questa è una canzone che è andata molto forte in radio, una di quelle canzoni tra virgolette radiofoniche, molto commerciali, che ascoltano anche le persone alle quali il rock non piace particolarmente. Una band un po' meteora, devo dire. Si intitola Just Dance. My Playboy mouth, how'd I turn my shirt inside out? Control your poison, babe. Roses are falling. and muscle covered up work at hustle. Got it, just stay close enough to get it all. Drive it, clean it, lies will bleed it, spend the rest of. Got it, in the back of. Got it, just dance. Caro Simone, stasera ci siamo sentiti poco, c'è stato un gran via vai nei nostri studi fra artisti e amici, veramente molto piacevole come serata, eh? Eh sì, devo dire di sì, d'altronde quando si sta in compagnia si sta sempre bene. Assolutamente. Bene, ti ringrazio, ti saluto. Grazie a te, grazie a tutti gli amici che fino a quest'ora puntuali ci ascoltano sempre con tanta passione e tanto affetto. Assolutamente, quindi grazie a Simone, grazie alla nostra redazione, grazie a tutti voi ascoltatori, chiaramente avete seguito Rock Revolution. Appuntamento la prossima settimana, sempre il venerdì e poi in replica il sabato pomeriggio, il venerdì dalle 21 a mezzanotte e poi il sabato dalle 19 in poi. Volevo segnalarvi anche Rock Revolution Love Edition, l'edizione d'amore di Rock Revolution con due ore di pura musica rock and roll d'amore senza alcuna interruzione, da usufruirne la domenica sera da mezzanotte alle 2. Quindi se siete in macchina o strada, donna, quindi sola, stavo dicendo un po' offensivo forse, potete approfittare di questo momento d'amore che, insomma, spesso le donne si lamentano del fatto che noi uomini siamo poco romantici. Potete dedicarle anche una bella canzone. Il nostro sito internet rockrevolution.it. Vi ringraziamo ancora. Seguite il nostro profilo Facebook per tutti gli aggiornamenti e gli ospiti della prossima settimana. Da Filippo Brancato e da tutti quanti un grazie, arrivederci alla prossima. Avete appena ascoltato Rock Revolution su CRM di Radio. Avete appena ascoltato Rock Revolution su CRM.